Friuli nel mondo. 154esima trasmissione dedicata agli emigrati. Il Grillo d'Oro. Festa della canzone friulana per bambini. Nella cornice stupenda del Parco Arrighini di San Giovanni al Natisone si è svolta la seconda festa della canzone friulana per bambini con l'orchestra diretta da Olinto Contardo. Questa gentile manifestazione ha voluto anche quest'anno portare alla ribalta un mazzetto di nuove canzoni friulane che vanno ad arricchire il ricco patrimonio melodico del nostro Friuli. Ma ciò che della festa soprattutto colpisce sono la semplicità e la grazia, unite all'impegno e alla spontaneità dei piccoli cantori, che con la presente trasmissione, a nome di tutti i bambini del Friuli, mandano un abbraccio e un bacio ai fratelli lontani. Mandi mandi siore mestre, di Fabbro, è cantata dalla piccola Silvia del Tedesco. Di Scozziero e Cimiotti è la canzone dal titolo Baruffis, interpretata dai bambini Emanuela e Adriano Salotto. Thank you. Peppe, tu vio di cieco fas. O voi con la carete e poi a pinnas. Tutti su se voi fradis, dovete star a pian. Di doi quattro i paluti, vengate in tropa. Su di su le bruciate, no si fa. Franco Braidotti e Gianfranco Lugano interpretano la composizione di Visintini dal titolo I doi manigoldos. Ed infine ascoltate la bella canzone di Moro, Leil Sun, nell'interpretazione del bambino Maurizio Scolaro. Thank you. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.